Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave, buonasera da Maurizio Calzavara, da Michele Toson in regia e da Roberto Valdi che cura le webcam, che sta curando le webcam. Ok, stasera come ogni mercoledì abbiamo sempre la musica dal vivo e stasera ospitiamo con molto piacere un gruppo che viene da Pavia. Buonasera ragazzi. Sera. Buonasera. Avete fatto buon viaggio? Sì. Sì, un po' di nebbia, vero? Un pochino. Sì. Un pochino, esattamente. A me interessava una cosa quando ho visto la band, il cospicuo numero di strumenti che avete portato. Un discorso molto interessante. Perché molto interessante? Perché il vostro album, che si chiama Il Pifferaio di Pandora, è un concept disco, cioè un concept album. Si usava una volta il concept album. Com'è l'idea di un concept album? Chi parla di voi? Il cantante? Vabbè, vado io, dai. Il vocalist? Sì. Ciao. Ciao. No, niente, l'idea del concept album più che altro è nata dalla voglia di trasmettere appunto un'idea di viaggio al nostro album, cioè un viaggio che ti porta attraverso delle tappe e che quindi ti porterà piano piano a scoprire qualcosa in più. Ed è nata principalmente l'idea appunto di parlare di questa scoperta che parte magari spesso nella vita dal dolore, e poi ti può portare a un nuovo modo di vedere le cose se si affronta questo dolore che a volte può arrivare. E la musica esprime le diverse tappe del viaggio, allora? Sì, sì. Possiamo dire così? Sì, diciamo che la prima parte appunto è l'ingresso, la prima parte dell'album è l'ingresso in questa ottica un po' più cupa e dolorosa, per poi riuscire ad affrontarla e uscirne fuori con una nuova con un nuovo modo di guardare le cose. Esattamente. E le diverse tappe del viaggio musicalmente, io ho sentito nell'album un po' di folk, ho sentito un po' di blues, un po' di rock e un po' di psichedelia, le cose che amo particolarmente. Cioè c'è un rincorso indietro verso certi anni, anni 60, anni 70, però chiaramente con una propulsione adesso al 2000, è così? Sì, sì, in parte sì, diciamo che a noi piace molto la musica psichedelica, appunto anni 70, sì. Però cerchiamo di rivisitarla un po' a maniera nostra, anche perché ovviamente sono anni diversi e quindi abbiamo esigenze diverse. Certamente. Ora ci presentiamo uno a uno, cosa dici? Tu sei il vocalist? Sì, sono Samuele. Ok, poi? Ciao, sono il chitarrista Paolo. Io sono il batterista Matteo. Bassista Davide, nonché curatore di tutti gli organigrammi musicali. E poi? Altro chitarrista Alan. Perfetto. Il gruppo mi pare che sia nato l'idea nel 2004, è così? Sì, sì, eravamo ancora in quinta superiore. Bene, quindi siete molto giovani ancora rispetto al sottoscritto, decisamente. Quindi al quinta superiore c'era l'idea, il progetto di portare avanti della musica assolutamente non convenzionale, secondo me. Così. Sì. Sì, noi ci siamo trovati con l'idea di suonare, poi non avendo un repertorio comune, diciamo che sono nate prima le canzoni nostre piuttosto che le cover, e quindi da allora abbiamo subito deciso di intraprendere questo percorso fino a che alla fine del 2008 abbiamo pensato di iniziare a registrare. È stato difficile l'idea di portare avanti un concept album? Non è stato semplice? No, beh, in realtà è venuto da sé. È venuto da avevamo un po' di un repertorio un po' più vasto, mm-hmm. E quindi all'interno avete limato i pezzi, sì, che andavano bene praticamente. Quindi avevate altri pezzi pronti nel cassetto, così detto, sì, pezzi qualcuno. Nascosti, sì. Ce n'è più di sì, uno. Sì, magari dopo ne ascoltiamo uno. Ecco, qualche anteprima però qui. Cominciamo ad aprire la nostra finestra, quindi facciamo sentire la traccia che avete scelto, che è la traccia numero 3. La spieghiamo un momento? No, la spieghiamo dopo, la sentiamo prima, ok? Va bene? Ok. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Thank you. luce, l'alba e il suo calore, mi han detto sai che può far male, ma non mi voglio più fermare amore, perché sai io devo andare. Per me è solo un gioco, e allora dai, danza un po' anche tu, perché lì al fronte aspettano per far fuoco e voglio. La magia di Roberto è riuscita a praticamente... Vi stanno vedendo in questo momento. Siete contenti? I vostri fan sparsi per l'Italia vi stanno vedendo. Ciao a tutti. A me interessava sapere il discorso del finale di questo pezzo, che è molto indicativo di certe tematiche vicine un po' ai cessi di Ferretti e a certe cose, avevamo parlato prima dell'inizio della trasmissione con la band, a certe cose del Battiato più sperimentale. Chi mi parla di questo? Beh, più il cantante. Il cantante, è lui che ha scritto il testo. Ah, quindi... benissimo, il testo e la musica che l'ha scritta assieme. Alan, particolare. Ah, il chitarrista, sì. Benissimo. Ok, vai col cantante e poi parliamo col chitarrista. Dai, dimmi. Bene, niente, il testo di questa canzone parla di quando siamo costretti ad abbandonare ciò che abbiamo, fondamentalmente, che può essere magari anche la cosa più bella che abbiamo, l'amore o quello che... Però... A volte la vita ci mette davanti a delle scelte, a dei bivi e che ci costringono appunto a dover partire, andare verso qualcosa che ancora non conosciamo, che ancora ci è ignoto, senza sapere se mai torneremo indietro. E l'ignoto, la cupezza del brano è per questo traspare dall'ignoto, sì. Perché l'ignoto è la cupezza del brano, o sbaglio? Sì, è l'ignoto. Diciamo. È l'ignoto, perfetto. Il buio, sì. E il buio. E la cupezza, a me interessa... Dov'è il chitarrista? Eccolo qua. La cupezza del brano, come l'hai svolto? Come l'hai costruito? Come l'hai ampliato? Come l'hai reso praticamente musicale? Ma direi, sono sempre stato affascinato da suoni abbastanza orientali. E in quel periodo in cui ho composto quel pezzo ho avuto la fortuna di conoscere alcuni ragazzi iraniani che mi hanno iniziato a farmi sentire alcuni pezzi molto tradizionali della loro cultura, e in un modo o nell'altro sono rimasto abbastanza influenzato, e questo si è trasmesso proprio in questa canzone, soprattutto nel finale, secondo me. Cosa dici? Sì, soprattutto in quella parte. In quella parte finale, esattamente. E da un certo, sì, la cultura orientale, quindi delle musiche orientali. Perché questo pezzo, questo disco, ragazzi, parlo anche con gli ascoltatori, è un po' un coacervo di tante cose. Si parte dal rock, si passa alla musica folk, alla musica tradizionale, si arriva al blues, secondo me, che c'è un po' di blues sparso, non proprio sparso, e fa parte del DNA dei diversi brani, o sbaglio? Siete d'accordo? Sì. Bene, siete d'accordo? La colonna vertebrale, che la non colonna si vede, vertebrale, però è quello che regge il tutto. Ecco, che difficoltà c'è stata per comporre un brano di questo genere in sala di registrazione dal vivo? Prima di è stato il primo take? No? No, anzi, all'inizio il violino non era stato neanche ecco, programmato. Il violino è stato inserito dopo, allora, il violino. Sì, sì. Un po' per caso. Un po' per caso. Un po' per sperimentare. È bello, il violino ha un certo senso, dà una certa colorazione dark, posso... Sì, dico a quello. È vero, già un pizzico di dark, e non fa male, secondo me. Sì, riesce a creare delle atmosfere che altri strumenti non sarebbero in grado. Esattamente, fare. Quindi tu hai avuto l'idea di inserire il violino, gli altri sono rimasti d'accordo e il cantante ha dato il canovaccio del testo praticamente. Sì, diciamo così. Bene, e quindi è stato il primo, cioè è stato il pezzo iniziale, cioè è stato il primo pezzo che avete scritto dell'album, voglio sapere questo. No. Il primissimo di questo album è stato London Track. Perfetto, è stato un discorso di, posso chiedere, di greatest hit, cioè praticamente avete strapolato i brani più interessanti, tutti quelli che avevate scritto, oppure no? In parte abbiamo fatto questo ragionamento, in parte alcuni li abbiamo proprio esclusi perché pensavamo che per il primo disco erano un po' troppo azzardati, poco orecchiabili, un po' troppo... psichedelici, appunto. Ho capito. Alcuni brani poi sono stati anche composti durante la registrazione dell'album per riuscire a incastrare la storia che volevamo rappresentare. Io posso ribadire il concetto che ho fatto prima di andare in onda. Siete stati coraggiosi andare ad incidere come album di esordio un concept album. Ma è qualcosa che abbiamo sempre voluto fare, credo, dall'inizio. Perché comunque ci siamo incontrati con esperienze diverse. Ok. E ognuno ha portato dentro al gruppo un qualcosa in più e comunque di diverso. E quindi ci sembrava almeno abbastanza limitativo proporre un disco con, diciamo, brani più o meno tutti sullo stesso stile. Perché comunque questo album i pezzi di questo album li abbiamo composti nell'arco di un po' di anni, sì. Diciamo. Cioè, no, no, cioè una cosa dal 2004 fino adesso. Meno 4 anni. L'album è stato nei negozi da qualche giorno, cioè dallo scorso mese, quindi è recentissima uscita. Quindi. Ok, facciamo sentire un altro pezzo, che è la traccia. Avete scelto la traccia numero 7. Facciamo come prima, lo sentiamo prima e poi lo spiegate, ok? Ok. Thank you. Telechiara. Da 20 anni la voce del Nord-Est la trovi sul tasto 14 del telecomando. Per informazioni telefonare allo 049 84 81 900 o visita il sito www.telechiara.it. Focus. L'attualità dal Veneto. Le voci dei protagonisti. Approfondimenti e notizie in tempo reale. Con Mirko Cavallin dalle 11 alle 12.30, da lunedì a venerdì, su Blu Radio Veneto. Focus. L'attualità dal Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Azzardo una cosa. Un finale alla Sister of Mercy. Siete d'accordo? Non li conosco. Ah, peccato. Ero proprio neri, cioè proprio dark. Dark nel senso musicale del termine. È un po' un finale in quel genere là. Molto, il pezzo come è stato, l'idea come è stata sviluppata musicalmente parlando. Il testo lo so che l'ha scritto il nostro vocalist, però la musica? Chi risponde? È nata così. Assieme? Sì, assieme, diciamo una jam session. È tutto jam session l'album, o no? Sì, più o meno. Più o meno, più o meno sì. A parte si respira quel modo di Pandora. Sì, quello è un po' diverso. È nato verso la fine. E niente, è nato così. È nata così, si è sviluppato. Poi si è sviluppata, sì. È nata all'inizio dell'estate, diciamo che... Quando siete arrivati in sala di incisione era già pronto il pezzo? Sì. Non c'è stato... No, quella era già pronta così... Si era già rodata. Quindi voi siete band che amate suonare dal vivo, mi pare. Amate suonare dal vivo. Quindi l'avete provati questi pezzi sicuramente in qualche concerto. Ormai ormai un po' di tempo. Quindi siete arrivati all'album dopo aver provato parecchie volte i pezzi, o sbaglio? È così? Sì. Vero. Benissimo. È vero. Quindi è una cosa molto positiva provare, continuare a provare, cercare di limare, di ampliare, di mettere a posto le cose. Sì, anche perché poi si ha il riscontro diretto con un pubblico dal vivo, per cui si riesce a capire meglio l'impatto che può avere un pezzo. I nostri ascoltatori non lo sanno, ma prima ho visto i ragazzi provare, ha un bel impatto dal vivo, molto energico, chiaramente limitato al discorso nostro, quindi il discorso di una radio, però energico al 100%. E a proposito di energia, siete pronti per suonare? Sì. Non aspettiamo altro. Cosa avete deciso di far sentire come iniziare, come per dare questo inizio fino alle 24, avremo tempo di farci di altri pezzi? Vi facciamo ascoltare l'inizio dell'album. Ah, l'inizio, l'intro, cosiddetto intro. L'intro, l'intro e Contact Me, la seconda canzone. Quindi tutti e due collegati praticamente. Sì. Si inizia, i concept album iniziavano sempre con l'intro, effettivamente, i grandi concept album di un tempo, so, i Moody Blues, gli stessi Pink in alcuni momenti. E quindi la tradizione continua, anche se è 2010 e oggi ne abbiamo 15 di dicembre. Allora, siete quasi pronti, anzi siete pronti, adesso andate ai vostri strumenti e poi cominciamo a suonare, una volta. Okay. Sì, i nostri ascoltatori devono sapere che devono spostarsi, chiaramente tutto dal vivo, è come un concerto cosa, la gente vede, si preparano con gli strumenti, il chitarrista prende la chitarra, il bassista prende il basso, batterista, che è la cosa più importante, la batteria, si deve posizionare bene, e non è così, ecco, adesso si posiziona. E l'altro chitarrista lo stesso, e fra poco partiamo. È tutto dal vivo, tutto in diretta. Chiaramente sono le 22:36 e 04 secondi. Tanti, mentre loro si preparano, salutiamo le nostre tre affezionate ascoltatrici, che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, e il nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco. Siete quasi pronti? Ok, ci siamo? Sì, quasi. Benissimo. Cause I'm a stranger. Indeed, I'm running, running to fear someone like you. Evil got in touch. When I wake, I won't fear someone like you, 'cause I'm a stranger. You don't know it's inside. We know it's inside. You know how I. We know Unsense dal vivo a Rock Wave 22:43:04. Bellissimo. Io ho sentito molto punk in questo pezzo. Cosa dite? Sì, questo pezzo è abbastanza tiratino. Molto tiratino, molto tiratino. Con quella versione punk, soprattutto all'inizio, poi alla fine no. Però all'inizio era proprio punk al 100%. E beh, il punk ci sta. E sì, sì, sì, sì. Beh, noi abbiamo ascoltato comunque gruppi tipo Clash o vabbè, Sex Pistol. Al massimo, quindi il punk ci vuole, ci sta. Sì, dal sì, vivo è ancora meglio. Dal vivo è ancora meglio il discorso. Si allarga sempre di più il modo di fare un po' rock, non duro, potente, quello è il motivo. Cosa dici? Sì, dal vivo diciamo che è proprio un'altra impostazione che su disco. È proprio. Sì, ma fate muovere la gente, chiaramente. Sì, sì. È tutto ad hoc. Quindi il vivo e il live serve molto. Beh, è fondamentale, diciamo, le basi che del live. Esatto, se senza live per quello che ci riguarda non avrebbe gusto, cioè non troveremmo gusto nel fare i musicisti. Esattamente, quella è la cosa fondamentale secondo me. E come li provate i vostri pezzi? Avete uno studio particolare, avete un posto dove poterli provare? Un garage. È un garage, è come si usava una volta. Sì. È giusto che sia così. Il punk si usava provarli in garage, e non soltanto il punk. Sì, non solo il punk, un po' tutto, mi sa. Un po' tutto, sempre a Pavia praticamente. No, no. Sul Lago Maggiore. Ah, bene, sì. Un bel panorama allora. Eh beh, sì, quello sì. Sì, quello sì. Perché noi comunque siamo originari di quelle zone. Pavia è il centro praticamente, sì, un punto di ritrovo. Esatto, forse. Esatto. Benissimo, quindi abbiamo sentito un pezzo punk. Nell'economia degli altri pezzi, che funzione ha questo pezzo? Trainante rispetto agli altri oppure no? Sì, assolutamente sì. Diciamo che essendo anche il pezzo tra virgolette di apertura del disco, serve proprio per introdurci in questa atmosfera, cioè per tirarti un attimo dentro. Infatti dice un demone mi ha contattato per appunto per darmi qualche novità e lì appunto parte la storia. Sì, praticamente per sviluppare un discorso musicale, per dare il lancio esatto. ai diversi pezzi del disco, esatto. a diverse strade del viaggio da percorrere, sì. Praticamente. Sì, sì. Che sono, come abbiamo detto, non sono strade così violente rispetto, i primi 4-5 pezzi sono un po' tirati, però gli altri pezzi un po' meno. No, no, infatti. C'è una tema, volutamente così. Sì, a noi piace anche molto la musica che ti fa rilassare, non soltanto quella che ti fa ballare. Rilassare con un certo minutaggio, un certo voltaggio, visto sì. che avete ancora, avete il valvolare, avete là. Sì, sì. Bello, è molto bello. E avete l'amplificatore valvolare. Artigianale. Artigianale. Come mai il vintage, il ritorno dei vintage, secondo voi? Le cose di una volta. Questione di gusti. Mm. Però dà un altro suono, molto più caldo, molto più suono. Sì, quello sicuramente. Sì, sì, sì. Decisamente. Sì, sì. Difatti, non... citiamo i Pearl Jam. Continuano a usare quelle cose là. Sì, ma in realtà anch'io avrei un amplificatore valvolare, solo che per problemi di spazio... Ah, non ci stava, era enorme praticamente. Eh sì. Più grande è, meglio è. Sì, poi così. Per il basso. Per il basso, sì, chiaramente. Ok, sentiamo un altro pezzo del disco, cosa dite? Sì, volentieri. Allora, abbiamo scelto la traccia numero 12, che è l'ultima traccia, è una traccia di cui dobbiamo parlare un momento però. Una traccia che è piena di tante cose, è una specie di scatola cinese. Ne parliamo dopo, la sentiamo prima? Sì. Ok, va bene. La musica diceva: gli alberi e le stelle si misero a ridere, gli elefanti divennero uomini e i fiumi si donarono in topi, le madri in fiori si spogliarono e i semi sparsi in tutto Oriente sbocciarono in api. E per la prima volta, signori miei, per la prima volta la luna e il sole in un abbraccio sottile cominciarono a respirare. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockwave.tk, ci potete vedere e sentire chiaramente con i On Sense stasera live. E i Ghost Track, questa è una traccia che c'ha, cosa detta? Ghost Track, cioè la traccia fantasma. Noi chiaramente l'abbiamo tagliata perché sennò beh, sì, andavamo verso i 10 minuti. Come mai l'idea di questa Ghost Track? Forse per il discorso del viaggio, connegato alla magia del viaggio stesso? Sì, diciamo che era un po' la liberazione dal viaggio, la Ghost Track. Sì, sì, che ti lascia un attimo, ti carica un po', ecco. Adesso parliamo un momento di questo pezzo che è molto complicato, ma allo stesso tempo molto interessante. È una scatola cinese, secondo me, ci sono parecchi momenti. Parli sì, te e poi parla il bassista o chi okay, l'ha scritto praticamente. Il chitarrista. Il chitarrista. Benissimo, ok, vai. Niente, il titolo di questo pezzo, che si chiama Il Pifferaio di Pandora, appunto, richiama a un'idea, cioè l'idea di questo, del pifferaio magico e del vaso di Pandora. Certo. L'idea è di questo pifferaio magico che, viaggiando, entra dentro nel vaso di Pandora, dove ci sono tutti i mali che sono stati liberati, no? Non è quello di Sanremo, non c'entra, no? No. Però no, dimmi. Esatto. No, io mi sono ricollegato a una frase di Valerio Scanu. Ok, andiamo. Ah, no, assolutamente no. Bene. E, oltre ai mali, però, ci sono anche delle speranze, secondo la leggenda. Cioè qualcosa di nascosto, che appunto il pifferaio entra e non è giudice, non giudica il male o il bene, semplicemente guarda quello che c'è. E per vedere se dietro l'apparenza di appunto che era stato liberato, quindi tutti i mali nel mondo, c'è ancora qualcos'altro. Certo. Cioè ti porta ad andare, tra virgolette, oltre alle apparenze, questo pifferaio. Benissimo. Una cosa molto importante, nel disco c'è un bellissimo disegno che è stato disegnato. Da chi è stato fatto il disegno? Il disegno è stato fatto da Corrado Roy, che è uno dei disegnatori di Dylan Dog. Quindi molto importante, molto bravo. E appunto ha rappresentato, diciamo, una sua idea di questo pifferaio. Oltre a voi, chi suona nell'album? Oltre a noi suona, in Ritorno alla Bruce Rock, che abbiamo ascoltato prima, un violinista che si chiama Pietro Boscacci, di Sondrio. Che dà un po' di momento dark molto interessante, esatto, come abbiamo detto prima. E un controbassista della nostra zona che si chiama Marco Conti, che ha sempre suonato jazz. E sta bene con voi, perché non c'è il jazz, però... No, assolutamente. Però... ci aiuta, diciamo che... C'è qualcosa che può fare. E un'altra cosa che volevo chiederti è questa. L'autoproduzione è vostra? Sì, sì, completamente. Al 100%. Mm. La Lunatic vi ha dato una mano praticamente. A pubblicizzarlo. L'agenzia di stampa. Esatto, vi ha dato una mano alla stampa e a pubblicizzare l'album. Sì, sì, sì. Ok, adesso sono le 22:54 e adesso è l'ora, il momento di un altro pezzo live, chiaramente. Okay. E poi facciamo il giochetto che abbiamo deciso. Ok. Okay. Adesso vi alzate, vi mettete a posto. Ricordiamo che questo è un album molto interessante. Sono 12 pezzi. Chiaramente 12 sì, pezzi. Posso dire che una suite. Ripetiamo il discorso: è un concept album, però con da tante facce. Il viaggio deve essere fatto da tante facce, da tanti elementi. E da tanti elementi che sono gli strumenti. Uno degli elementi: esatto, la batteria, le tre chitarre. E poi questi amplificatori vintage, questi amplificatori valvolari. Siamo pronti? Ok, ci direi siamo. Di sì. Ci siamo. And I'm pretending, yeah, to know the West and get a fit in my soul. Baby, wanna rock you till my dawn. It's I'm wishing to know the time, but I'm ready, yeah. I feel my mind, I get a fit in my soul. Baby, wanna feel goodbye, oh, Lady Rome. Born you right, I got founding, yeah. I feel my mind, I get a feed to my soul. Baby, wanna rock you till my dawn. I won't cry my shit. I wanna rock inside my dream. I wanna rolling in my window. I feel the rock you till my dawn. Oh, Lady Rona, Rona. Oh, Lady, Lady Rona, Rona. Oh, Lady, Lady Rona with me. I gotta feed my soul. I wanna rock you till my dawn. Oh, yeah. Yes, grab my sheet, babe. I feel directions away. Till my dream. Rona, Rona. Oh, Lady, Lady Rona, Rona. Oh, Lady, Lady Rona with me. I gotta feed my soul. I wanna rock you till my dawn. Oh, Lady Rona, Rona. Oh, Lady, Lady Rona, Rona. Oh, Lady, Lady Rona with me. I gotta feed my soul. I wanna rock you till my dawn. I get to rock you till my dawn. I wanna rock you till my dawn. Yeah. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Del sano vecchio blues, quello che viene fuori prepotentemente, del sano vecchio blues, è così, certamente. A me ricordava un po' i Kennedy, non so. Anche quelli non è che li conosco tanto. Però fanno del blues proprio corposo, bello, bello, cospicuo, pesante, nel senso positivo del termine. Il blues c'è, assolutamente, sì. Questo era un pezzo blues, un po' svirgolato poi alla fine, ma fondamentalmente il DNA è quello. Sì, era quasi un classico blues. Era quasi un classico blues. Sì. Com'è l'idea? Come hai avuto l'idea del classico? Come avete avuto l'idea del classico? Questa è proprio nata così. Ah, lui nata stava così. Facendo un giro, io gli faccio bello, e lui, ma no, è una schifezza, ma no, a me piace, e boom. Ma c'è una dialettica democratica quando trovate i giri, oppure c'è uno che li impone, uno, no, e basta? Il cantante dipende, dittatore. Io sono abbastanza un dittatore. Ah, perfetto, mi fa piacere. Come qualsiasi cantante. Tutti i cantanti sono così, sono tutti dittatori. Sì, non vogliono mai cantare, però devono avere le decisioni loro. Sì, poi tanto però le mazzate le prendo io. È difficile cantare un pezzo blues? Questo pezzo blues? Ma non lo so. Come sei entrato subito, grazie al giro, al riff che ha fatto il tuo collega? Sì, mi trovo meglio con questo genere io. Cioè rispetto che con altri tipi di generi, poi dipende. Anche la tua voce si adatta meglio probabilmente a sì. Benissimo, 23.01, siamo fuori tempo, dobbiamo fare il giochetto. Il gioco, il nostro famoso gioco, i dischi da portare su un'isola deserta. Di solito sono 5, ma voi siete in tanti, le 3 solamente a testa, va bene? Però la regola fondamentale, che come mi insegna Michele, non si può copiare. Quindi tutti quanti originali, senza copiatura. Con chi comincia? Lui. Lui il nostro riff, quello che ama fare i riff praticamente, i giri, il nostro chitarrista. Ma direi iniziare con Amnesiac dei Radiohead. Sempre un disco molto difficile, cominci come mai con i Radiohead come Amnesiac? Un disco non, assolutamente non semplice, una svolta per Radiohead. Sì, perché credo sia quello un po' più sperimentale, ricercato. Quindi Tom York è andato al di sopra. Sì. Decisamente. Tom York è un grande musicista, un grande scopritore di sonorità, possiamo dire questo. Mi piace quando un gruppo rischia, cerca qualcosa di nuovo. Amnesiac credo sia... Ah, sì, ok, benissimo. Amnesiac è il primo disco. Il secondo album che hai scelto? Secondo album, secondo CD? Seconda emittente sonora, dai, possiamo dire questo. Direi Nightbook di Ludovico Einaudi. Come mai passi dai Radiohead sperimentali a un pianista? Perché mi piace molto il suono del piano e soprattutto in quest'ultimo album sto vedendo che sta cercando anche lui di integrare qualche strumento nuovo, un po' di elettronica nei suoi brani, comunque mantenendo sempre uno stile molto classico. Poi mi piace molto lui perché le canzoni sono molto semplici, ma riesce a esprimere sensazioni che credo pochi pianisti riescono a dare. Ci sta bene lo stesso i Radiohead in sottofondo, ci sta molto bene secondo me. Sì, sì. Che è un disco non semplice, neanche, questo pezzo non è semplice, ma è meraviglioso in ogni caso. Terzo album? Direi gli Alice in Chains. Sempre cose, passi dal pianista a una cosa molto dura, gli Alice in Chains. Ma gli Alice in Chains, quelli acustici o quelli veramente potenti? Direi dell'album di Nutshell. Ah, non Unplugged, gli Alice in Chains, assolutamente. Quindi gli Alice in Chains potenti. Grande gruppo gli Alice in Chains. Sì. Li hai visti recentemente, visto che sono venuti in tournée in Italia qualche mese fa? Purtroppo. Ah, non c'eri. Li ho persi. Li hai persi. Benissimo. Il chitarrista ha finito i suoi tre, tocca al bassista. Bene. Beh, io partirei con A Saucer Full of Secret dei Pink Floyd. Io sono già in piedi, non devo sollevare un'altra volta. Sono già in piedi. Come mai? I Pink Floyd è la prima musica che ho ascoltato, penso. Ma non hai scelto un disco semplice? Cioè, se fosse Secret, è un disco alla, sicuramente barrettiano al 100%. Beh, certo. Diciamo che sono i Pink Floyd che preferisco. Quindi molto Barrett. Più psichedelici. Assolutamente Barrett. Sì, sì. Quello era proprio un disco di Barrett al 100%. Sì, Barrett Waters. Sì, Barrett Waters. Però Barrett c'era... Sì, sì, ha messo il... Ha messo lo stampino. Dopo se n'è già andato via. Cioè, è stato... letteralmente non è andato via, l'hanno lentamente ma progressivamente allontanato perché non ce la faceva più stare in piedi e tante altre cosette. Sì. Quindi Pink, poi ecco, direi sempre stando un po' nel passato, Surrealistic Pillow dei Jefferson Airplane. Ah, che bello, abbastanza spensierato. Come mai Paul Kattner, come mai Grace Slick? Tu sei molto giovane. Sì, diciamo che li ho scoperti recentemente, diciamo, più o meno quando è nato il gruppo. Ah, quindi non tanto tempo no, fa, no, nel 2004. No, abbastanza recenti, però. Come li hai scoperti? Molto. Li ho scoperti grazie al mio professore di matematica. Grande professore di matematica. Sì. Ma ci stava parlando del coniglio bianco di Alice, e quindi mi ha un po' incuriosito. White Rabbit, praticamente. White Rabbit, sì. Grace, grande Grace. Poi io, vabbè, sono un appassionato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Perfetto. Quindi mi ha incuriosito, sono andato, li ho scoperti. I grandissimi Jefferson Airplane. Sì. Somebody to Love, chi non conosce Somebody sì, to Love? Sì, anche quella molto bella. Quella è molto bella. La fate come cover per caso? Così, no. Una mia curiosità. No, no, stavamo pensando White Rabbit, però... Sarebbe un po' più difficile vedere. White Rabbit. Sì. Vai, okay. Secondo e terzo album? Terzo album cambierei completamente e sceglierei qualcosa di musica classica, tendenzialmente Chopin. Anche questa, o anche, Beethoven. Scusami se mi ti interrompo, anche questa è musica classica, secondo me questa è sì, musica infatti, classica. Sì, infatti, sì, c'è qualcosa... musica classica, c'è sì. poco da fare. Sì, Beethoven, sì. cosa di Beethoven? Beh, diciamo, la prima canzone in assoluto che ho imparato a suonare è stato per Elisa. Come sempre, sì, come tutti. Una come dichiarazione tutti. D'amore per una ragazza, per una bambina. Diciamo. Come tutti, si comincia sempre con per Elisa. E vabbè, però sì, Moonlight Sonata, non so, perfetto, la nona sinfonia. Beethoven, Beethoven, Chopin. Perfetto. Passiamo a chi? A te? Matteo. A Matteo, il nostro batterista, eccolo qua. Allora, io come primo album direi il primo che ho comprato... che è stato Post Orgasmic Chill degli Scancanensi. Degli Scancanensi. Come mai ami gli Scancanensi? Anche l'ultima versione di Scancanensi, quelli che sono andati in classifica qualche mese fa. o no? Diciamo no, la versione originale. Allora, la versione originale degli Skunk Anansie aveva, erano proprio molto particolari e originali, per cui poi appunto secondo me, essendo stato il primo album che ho acquistato, certo. rimane praticamente. C'è sempre lei in ogni caso, Ma, cioè, comunque sempre bello, fa sempre piacere riascoltarlo. Certamente. E niente, sì, comunque se dicevi se mi piacciono anche i nuovi, la nuova formazione, sempre con lei davanti. Sempre con lei davanti, sì, in effetti. Io pensavo che una volta che si fossero separati, quando appunto hanno deciso di separarsi all'epoca, pensavo che appunto non mi immaginavo ci fosse stato una reunion, però lei ha voluto probabilmente e si sono riuniti. Comunque vabbè, da scoprire. Eccole qua in sottofondo, li senti, no? Ah, questo qua è l'album nuovo. Esatto, questo è l'album nuovo. Poi, number 2, secondo pezzo, secondo disco? Secondo disco, sicuramente qualcosa dei Radiohead. Anche te? Anche, sì, sono anch'io... Tom York dipendente. Cresciuto. Sì, no. Tom York dipendente, io sono uno che comunque in genere non ascolto mai solo un gruppo. Sicuramente la musica dei Radiohead riesce a toccare in me quella corda lì, che è forse la stessa che tocca anche l'album degli Skunk Anansie. Certo, no? Certo, per ho cui, capito. E niente, per cui direi sì, l'ultimo CD dei Radiohead, Rainbow. In Rainbow, sì, direi che è un lavoro, soprattutto per il momento in cui è uscito, in cui c'era forse... Una certa standardizzazione, crisi della musica in generale, è stato anche un progetto interessante. Proprio della promozione, esatto. Cosa ne pensi del progetto? Loro che l'hanno fatto scaricare, poi è stato pubblicato un po' più qualche mese dopo dalla EMI, praticamente. Bah, secondo me è un'ottima idea, nel senso che comunque la musica deve essere qualcosa che chiunque può fruire. Per cui se si parte, se si considera la situazione di oggi, meno male, voglio dire che comunque un musicista può, soprattutto a livello dei Radiohead, può permettersi di fare un lavoro del genere. Ecco, per cui... Hai detto giusto, può permettersi, perché i maligni hanno detto, sì, loro sono i Radiohead, e loro potevano permettersi, perché qualcuno anche ha detto, un altro maligno, che non è stato un grande successo, è stato un flop, perché qualcuno ha dato 5 stelline, chi ha dato 10 stelline, chi ha dato una sterlina. Quello è il discorso. Dicono anche questo. È una questione di... loro hanno voluto fare una... Di gusti, sì, da fare una cosa diversa. Sono stati, assieme a Prince, sono stati i primi a portare avanti questo discorso, che poi hanno cominciato a portare avanti altri musicisti, chiaramente. Terzo album? Terzo album, adesso ci devo un attimo, nel senso, vediamo, direi qualcosa anch'io di classica, ma sì, non sono convinto, no, dico terzo album, qualcosa dei Deftones, tipo il primo, no, dei Deftones, sì, il primo album era... fortissimo, poi i Deftones sono i Deftones. Esattamente, vai sul duretto, chiaramente. Un po' sul duretto. No, vabbè, i Radio, dai. Beh, insomma. Paolo e Matteo hanno iniziato a suonare in un altro gruppo. New Metal. È più metal, ok. Adesso, prossimo che tocca a te, mi pare, sì, il nostro, sì. L'altro chitarrista. Ciao. Ciao, dimmi. Allora, primo CD sicuramente mi porterei dietro i Tool. Ah, un altro gruppo interessante, molto... tosto in, sì, alcuni momenti, e porterei Lateralus tutta la vita, sì sì, e poi un altro CD Metallica, Justice for All, che è uno dei CD che ancora riesco a ascoltare. La tua anima, sì, viene fuori, la allora mia radice metal. La tua radice metal viene fuori, sì. Anche se Metallica di adesso non sono più Metallica di una volta. Sì, questo sicuramente. Però la tua radice metal viene fuori per ogni tanto, sì. Beh, sì. Giusto che sia così, visto che il vostro gruppo, secondo me, ci sono tanti tanti elementi che hanno portato alla formazione della vostra band, tanti elementi anche musicalmente parlando. L'altro disco che hai scelto, l'ultimo? Ma Ma sono un fan dei Ozric Tentacles e beh, adesso un CD non saprei, mi piacciono bene o male tutti. E quanti ne hanno fatti? Sì, quanti ne hanno fatti? Sono pazzi. Tantissimi, ne hanno fatti tantissimi, una cosa incredibile. E tra l'altro mi sembra che avevano suonato recentemente. Sì, esattamente. E possiamo, la musica di questa band inglese è assolutamente, cioè non si può giudicare, non è si assurdo. Può definire. Sì, sì. È una musica solo loro, particolarissima. Tantissimi dischi, tantissime esibizioni, tantissimi concerti, tantissime evoluzioni, tantissima ricerca. Sì, concordo. Anche nelle copertine molto belle, meravigliose in alcuni momenti. Abbiamo finito il giro o no? No, tocca a te. Ci sono... c'è il vocalist, il cantante. Dimmi. Allora, come primo CD porterei il primo disco dei Joy Division. Ah, bello, quello è molto bello. È molto dark anche molto quello. Dark, molto sì. dark. Anche quello. Primo disco di Joy Division. Poi mi porterei qualcosa, non saprei scegliere qui perché ce ne sono tanti che mi piacciono, però di sicuro qualcosa dei Faith No More. Quello non è dark, però è abbastanza tosto. È abbastanza tosto, è abbastanza un po' tosto. Più sul, appunto. E poi, visto che Radiohead li portano già loro, sì. Quindi è inutile che li porto io, forse un disco dei Doors. Ecco, adesso ci fermiamo un secondo. Disco dei Doors, sono 5 album dei Doors. Il primo, dove c'è The End. Penso proprio il primo. Bellissimo. Perché Jim Morrison era un genio... È un'icona praticamente, ancora rimane un'icona. Sì. I Doors hanno costruito delle cose molto interessanti, molto belle, molto innovative, anche fuori di testa, possiamo dire in qualche momento. Sì, assolutamente. Momenti. Però erano bravissimi, enormemente bravi, se mi è consentita l'espressione. Quindi, della Elektra, della casa discografica dell'Elektra, e recentemente è stato i 50 anni dell'Elektra, hanno festeggiato, chiaramente c'erano anche i Doors, la famosa etichetta americana. Quindi i Doors, io sono molto contento che tu abbia citato i Doors, come sono molto contento che tu hai citato i Jefferson Airplane, perché fanno parte della mia generazione, sì. Decisamente, molto più vecchia della vostra, chiaramente. Sì, sì. Però la musica non ha confini, non ha età, secondo me. La musica è tutta bella, sì, qualsiasi sì. posizione la si prenda. E abbiamo un'altra posizione, quella di suonare, 23:15, siete pronti? Adesso qualche minuto vi risistemate gli strumenti e cominciamo a suonare. Andate okay. pure a risistemarvi. E innanzitutto, che pezzo avete deciso di far sentire? My New Direction. Benissimo. Adesso parliamo un momento. È una cosa, visto che gli altri si sistemano, il vostro sito. Me lo siti? Ok, il nostro sito è www.unsense.it. Esattamente. Dove, cosa si può trovare nel sito? Momentaneamente quasi niente. Cioè, nel senso, è semplicemente un allaccio al nostro MySpace. Ok, poi in seguito. Poi lo faremo. E a proposito, avete qualche data presunta o state ancora vagliando? Sì, abbiamo data però nel periodo di febbraio-marzo. Abbiamo una data al Twiggy di Varese e ne abbiamo una a marzo, non so ancora quando, a Pavia, appunto, a Times Square di Pavia. È un locale molto, cioè una molto importante, famoso. E sì, è un localino. Un localino carino. Anche il Twiggy di Varese. Anche il Twiggy di Varese, esattamente. E dal punto di vista musicale, cioè il live com'è? Molto più pesante di questo, chiaramente. Questa è una fase pseudoacustica. Sì, semiacustica quasi. Sì, perché il batterista. Diciamo dimmi. Che nel live ci diamo parecchio dentro con una psichedelia. Ecco, quello è interessante. E quindi jam session. Molto fare. Di più di quello che si può vedere. Quindi versioni dilatate al 100%? Sì. Sì. Cioè non c'è un canovaccio, sia avanti, sia allarga, sia allarga, sia allarga. Qualcosa di un simil canovaccio c'è, ma molto libero. Molto diciamo. Libero. Sì. Siamo pronti? Sì. Ok. Once a tso tso, I ran my gloom, yeah. I feel my new direction. I travel and you want me down. Running on my action. I find it all in that time. Me to the tutsu. One to the tutsu. I to the tutsu. One to the tutsu. Running around my evil. I find you and you want on me. I find all my action. I travel on it down down me. Tsu-ru-tsu-tsu, we down down me. Tsu-ru-tsu-tsu, we down down me. Tsu-ru-tsu-tsu, we down down me. Tsu-ru-tsu, all right. Yeah, I'm loving. I'm loving you, I'm loving. I'm loving you, one. Ra-ra-ra-ra, my single, wake me down. I see your reside, darling, down, down. When you're before, on my boat, I get you roll low and down, down me. Tsu-ru-tsu-tsu, he down, down me. Tsu-ru-tsu-tsu, he down, down me. Tsu-ru-tsu-tsu, he down, down me. Tsu-ru-tsu, all right. Yeah, I'm loving you, I'm loving you, one. Loving you, one. Loving you, one. Loving you, one. Siamo noi, Ida Guglielmotti e Marco Parce, ad accompagnarvi dalle 17.06 nel viaggio virtuale di Serata in Blu. Anche quest'anno ogni giorno un tema d'apertura. La strada e i viaggiatori. Il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicologia e pedagogia. Nella seconda parte invece gli appuntamenti di cultura e spettacolo, in collaborazione con le redazioni locali. Ed in chiusura le rubriche di turismo internazionale, i libri, la scienza, piccole lezioni universitarie ed arte. Serata in Blu, da lunedì al venerdì, dalle 17.06 alle 19.00. 9, sulle frequenze in blu. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.tk, quindi con la webcam. Vi abbiamo inquadrato assolutamente l'evoluzione del batterista. Mi interessava lo stop and go. Non ne hai fatti tanti in questo pezzo, ma i precedenti sì. Dov'è il batterista? Hai fatto qua più di uno stop and go. È molto positivo. A me piacciono molto gli stop and go. Come mai? Come mai fai gli stop and go? Sono una caratteristica della band o una tua caratteristica? Ma io credo sia una mia caratteristica e credo anche della band. Della band. Ma è significativo e molto interessante, secondo me. Gli stop and go servono per sviluppare certi discorsi e servono molto. Voi che avete una band live, assolutamente, con lo stop and go cercate, sviluppate, arrangiate, allargate assolutamente. Anche se tu, giustamente, il cantante ha detto giustamente prima, c'è un canovaccio, però. Ma io guardo il discorso dello stop and go, lo riallaccerei al. A quello con cui siamo partiti, no? Diceva prima il vocalist del percorso dantesco. Diciamo anche il nome del vocalist, visto che ci siamo. È Samuele. Scusa. E del percorso dantesco, cioè lo stop and go è appunto quel passaggio che ti permette di perderti e ritrovarti, insomma, no? Esattamente, perché c'è sempre Dante, cioè c'è il discorso è c'è il punto di appoggio virtuale Dante di questo viaggio, questo percorso praticamente. Poi chiaramente lo sviluppo è vostro, però parte da quello. Quindi ritornavi al discorso di stop and go, serve a questo. Ma sì, serve a questo. Poi no, io stavo pensando, tu adesso dicevi avevo già fatto. Sì, esattamente. Probabilmente io sì, sono convinto che a livello come dire teorico, di idee, no? Sì. Come di studio, è sempre stato qualcosa che mi ha affascinato, il cambiamento in cui sono cresciuto. E poi appunto ci arriva un momento in cui uno lo fa veramente, cioè ci prova a farlo veramente. Ma può essere un rischio per la band un stop and go? Cosa dici te che sei al basso? No, assolutamente, va tutto ok. è tutto a posto praticamente. Sì, sì, ci sì. Deve essere così. Deve essere così. Sì, no, dall'opportunità. A livello musicale è molto bello. Giusto, è dall'opportunità a te, ai chitarristi, poi di ampliare, di giocare, di fare sì, sì. una solista praticamente lui. Visto sì, che alle volte, anche se ti mancano il pavimento sotto i piedi, però è anche bello quella sensazione lì di vuoto. Ecco, e in garage come fate queste cose? È un garage particolare, quello. È un garage particolare. Uno studio vostro dove, sì, dove... più o meno è di queste dimensioni. Ah, queste dimensioni, comunque. Quindi non siamo sì, tanto sì. distanti. No, no. Però provatela, cercate di sistemare le cose, di limare certi momenti. Questo è importante. Sì, sfruttiamo i riverberi che genera per arricchire le nostre sonorità e poi nei live vengono bene, quindi... Esattamente. A proposito dei riverberi, Samuele gioca spesso e volentieri con la voce. Sì. Come mai, Samuele, giochi con la voce? A me piace molto giocare con la voce, nel senso... Sono interessato a tutto quello che noi possiamo fare con la voce. Prendo spunto appunto per parlare un attimo di Demetrio Stratos, che era, diciamo, uno dei primi che ha affrontato questo tema. Perché io penso che ci sono più modi per comunicare. Uno sono i testi, le parole, ma anche proprio il modo di come uno usa la voce, di come noi possiamo sì, andare oltre con la voce. Questo trasmette molto, a volte anche di più di un testo, di belle parole, secondo me. Perché noi spesso, cioè molta della nostra comunicazione non è neanche verbale, cioè comunichiamo con gli occhi, certo. con tanti gesti e anche con la voce. E Demetrio comunicava con la voce, è arrivato a dei livelli veramente tosti. Sì, sì. Sì. Già gli Area era un gruppo molto importante, sì. molto significativo, molto di costruzione delle sonorità. Assolutamente. Ricordiamo che Demetrio aveva cominciato con i Ribelli, quindi un gruppo assolutamente beat, canzoni italiane, cover italiane da pezzi inglesi. Poi chiaramente ha sviluppato un percorso ben diverso. Piano piano sì, lui, ma poi anche altri, tipo anche sì. appunto Mike Patton dei Fenomore, un altro sperimentatore. Molto sperimentatore. Anche lo stesso Battiato era uno sperimentatore. Sì, beh, Battiato... Abbiamo citato Pollution sulle corde di Aries, o se no Messieri Gladiator, una facciata intera di un suono e basta. Io lo ricordo, cito Battiato, perché tanti anni fa è venuto qui al Teatro Pio X, qui più vicino, e ha presentato Messier le Gladiator. Come l'ha presentato? Un tappeto rosso, un organo. Sapete che Messier le Gladiator è una facciata di un suono e un'altra facciata dell'altro. Così ha presentato Messier. Eravamo solamente in 100 però all'epoca. Poi 2 anni dopo ha fatto l'album da 1 milione di copie e tutto è cambiato. Però è rimasto sempre il Battiato, secondo me. Sì, lui è allucinante. Io stavo ascoltando questa settimana Sono solo l'ombra della luce di Battiato e non riesco più a togliermi dalla testa. Benissimo. Io proporrei, Michele, se sei d'accordo, un'altra traccia, la traccia numero 4 del disco. Il titolo sì, questo lo potete dire. London Track? London Track è la traccia numero 4. London Track parla di appunto questo ipotetico viaggio verso Londra. Questa è abbastanza apocalittica questa traccia, diciamo. Bene. Nel senso, parla di un ipotetico futuro alla Blade Runner, dove Londra appunto viene colpita da qualcosa di atomico. Quindi una città un po' alla Blade Runner, anche se Londra non è propriamente la Blade Runner. Ovviamente no, però mi immaginavo quelle atmosfere con London Track. Ok, perfetto. Yeah. Tutto in diretta, tutto dal vivo, Hansens, tutto in diretta, tutto dal vivo. Ho voluto fare questo giochetto, ma hai praticamente dato l'introduzione a questo pezzo apocalittico, come ha detto Samuele. Come mai questo giro di chitarra in questo pezzo apocalittico, questa Londra apocalittica? Questa canzone è una delle prime che abbiamo scritto, ed era appunto il periodo del liceo, per cui diciamo... Quando abbiamo iniziato a scontrarci un po' con la vita, con quello che volevamo fare, e a volte la visione del futuro non era molto, molto buona. Molto buona, sì. Per cui questo pezzo ha raccolto un po' tutta l'angoscia, il timore di quello che avevamo davanti. E questo si è tramutato in questo giro di chitarra un po' abbastanza cupo. Sì, è abbastanza cupo, però sembra dolce. La traccia iniziale, cioè il momento iniziale sembra dolce, poi non è proprio così. Però sembra dolce, delicato, quasi sussurrato. È perché siamo una persona a parte con delle buone idee, quindi diciamo l'intro è abbastanza calmo. Però poi capita sempre qualche muro davanti imprevisto. Una cosa che dobbiamo sottolineare, non so se siete d'accordo, fondamentalmente viene fuori la melodia bagnata, cioè costruita, sporca, però viene fuori la melodia, più sì. o meno. Cosa dite? Sì, sì, no, è vero. Con molta difficoltà, ma deve uscire, viene fuori. Sì, anche sul finale direi l'assolo di Paolo, esattamente, molto melodico. Però si addice al testo così apocalittico, questa confusione, questo scontro continuo. Perché hai scritto un testo simile? Beh, appunto, come dice lui... Sì, pensa a quel momento particolare. Esatto, in quel momento particolare la mia visione del futuro era abbastanza apocalittica, ma era più come un ammonimento, cioè non volevo dire oh guarda come tutto va male, era più un semplice ammonimento, guardate che se continuiamo così... Non tutto andrà proprio benissimo. Dobbiamo darci una, secondo me, a livello proprio sociale, una calmata. Certo. E a proposito di Apocalisse, il Sassofono of Sigrets barrettiano non ha di Apocalisse, però questo svilupparsi degli strumenti, questo completamente allargarsi degli strumenti barrettiani. Tu sei un barrettiano praticamente. Sì. E Sassofono of Sigrets è un disco assolutamente, come abbiamo detto, barrettiano al 100%. E poi il discorso di Gilmour è venuto dopo, chiaramente. Sì. Però i suoni di quei Pink Floyd, praticamente sì, di quei Pink Floyd targato Syd Barrett, erano molto strani, molto diversi, molto ricercati. anche non suoni, perché lui... Sì, no, infatti ci sono anche canzoni, ad esempio in Amagamma, che... Esattamente, che richiudiamo, Amagamma, ricordiamo una parte dal vivo e una parte in studio. Sì. E ricordiamo una cosa, che Syd Barrett aveva dei suoni strampalati, proprio non sapeva suonare in alcuni momenti, perché era già in certi stadi, che non citiamo, decisamente. Ok, sono 23:32, io voglio, amo come tutti gli ascoltatori, sentire un altro pezzo live, chiaramente. Bene, siete pronti? Allora vi presentiamo un pezzo inedito. Benissimo, una cosa inedita per Rockway. Facciamo adesso, ci prepariamo, ci solleviamo dai soliti posti, prendiamo gli strumenti. Il nostro Samuele è sempre pronto a parlare con me, a dialogare qualche secondo. Abbiamo parlato dell'Apocalisse, di altre cose. E quanto ci hai messo a scrivere i testi di questo disco? Quanti anni? Dal 2004 fino a 2009? Oppure è una cosa un po' più veloce? No, diciamo che appunto... essendoci in questo disco anche canzoni vecchie, è stata una cosa abbastanza lenta e graduale. Comunque tengo a sottolineare che alcune canzoni hanno testi senza senso, proprio per quello che dicevo prima del fatto che secondo me a volte anche solo la voce trasmette. Perfetto, siamo pronti? Ok, che bello sentire le cose di preparazione. Vi ricordate i New Trolls di Concerto Grosso? È una cosa simile, è esattamente proprio quello. Thank you. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Smontate tutto. Io pensavo una piccola coda, era un loop straordinario. Vabbè, facciamo dopo. No? Era un loop straordinario, psichedelia pura, assolutamente psichedelia pura, Pink Floydiana al 100% o no? Decisamente floydiana, veramente floydiana. Questa qui infatti sì. È stata composta dal Barrettiano, il Barrettiano bassista. Sì, veramente all'inizio no, cioè c'era qualcosa dei Pink, quelli barrettiani. Sì. Assolutamente. Anche il finale di batteria, questa potenza della batteria che ha concluso il pezzo. Sì, beh, è fondamentale anche la batteria in questo Lo poteva pezzo. Riaprire in ogni caso, poteva continuarsi all'infinito. Sì, nei live... Continua. È sempre diverso, diciamo. Anche adesso è venuta fuori diversamente da tutte le altre volte. Questo è un vero e proprio jam session al 100%. Sì. Allora, perché citavo i New Trolls prima? Parlavo con il batterista. Perché nel concerto grosso c'è una facciata di concerto grosso, poi la seconda facciata ci sono variazioni e tema e di inizio degli strumenti. Cioè, praticamente loro provavano gli strumenti. 20 minuti di prova degli strumenti in sala di registrazione con Luis Enrique Bacalov che li guidava. Cosa meravigliosa, era il primo esempio di in Italia di queste cose. Era un vinile, alla volta c'erano i vinili. Prima facciata, concerto grosso, la seconda facciata, improvvisazioni. Sì, quindi floydiani anche loro o no? Sì, più floydiani e hendrixiani in alcuni momenti. Ma posso dire, perché comunque io adesso non li conosco benissimo. I New Trolls. Però una band progressive, anche progressive, non soltanto progressive. Cioè, sono sicuro che molto probabilmente loro improvvisavano sempre, no? Sì. Anche in prova, per cui non è che si può dire ok, l'hanno provata prima, poi hanno cambiato, cioè era proprio il loro main, era questa cosa qui, capito? Per cui... Ma diciamo che nel 1970 loro avevano altri gruppi, hanno fatto più avanti stessa roba, come la raccomandata con Ricevuta di Ritorno ed altre band progressive. Praticamente avevano coniugato la musica classica con la musica rock. Quello è l'inizio. Sì. Poi la seconda facciata, concerto grosso, era così. La seconda facciata erano delle improvvisazioni, come tu hai detto, erano delle prove vere e proprie, e praticamente registrate dal vivo. Improvvisavano, provavano gli strumenti, provavano certe dinamiche, provavano in continuazione, cosa molto interessante. La prima volta, sì. Non è mai successo in un disco italiano, però è successo all'epoca, famoso concerto grosso. E il discorso delle improvvisazioni dal vivo, ritorno sul canovaccio. Sì, il canovaccio esiste o esiste tendenzialmente, ma se arrivate a decidere di cambiare totalmente, come vi comportate? Lo fate immediatamente là da voi, cioè dal vivo, senza non c'è un accordo preordinato. Esatto. Ma non nessun accordo. Fate come Bob Dylan, che quando va sul palco i suoi musicisti non sanno assolutamente nulla di che scaletta vuole. Più o meno. Okay. Diciamo che lo obblighiamo a prepararci una scaletta, però poi siamo sempre pronti che... In base al ma è Samuele allora che decide che pezzi di fare. Sì, è lui il dittatore. Ah, è lui il dittatore. Allora, ribadiamo che lui è il dittatore praticamente. Sì. Ma allora... cioè, possiamo anche impegnarci a creare noi delle scalette, ma poi non vanno bene. E quindi è inutile. Oppure le cambia durante... Il concerto. Non accetta proposte. Insomma. Ah, non accetta proposte. Ma il concerto, cioè i ragazzi che vi stanno vendendo in concerto, non so, vi indicano che pezzi vogliono sentire oppure no? Spesso. Capita. Quelli che ci conoscono ovviamente. Chiaramente. Sì. Diciamo che i concerti London Track, ad esempio, è un pezzo che va forte. Va molto forte. Sì. Ma è apocalittico perché muove... libera sì. Come si diceva una volta Finardi, libera la mente, la radio libera la mente. In questo momento abbiamo liberato la mente con questo pezzo decisamente. Questo non era l'Andon 3, però questo era un pezzo simile che poteva liberare, cioè, sì. Poteva trovare il prossimo disco, se ci sarà un disco, penso di sì. Sì, ci stiamo già lavorando. Quello nuovo, esatto. Avrà questa dimensione, queste coordinate oppure no? Tendenzialmente sì. Avrà comunque sempre una storia, un filone. Cioè ci sarebbe un concept album, ci sarà sempre. Sì. Io barrettiano... Convinto. Non posso permettere altro. Quindi lui decide, però sei te che decidi. Musicalmente chi decide cosa fare? Tutti. Tutti quanti. Sì. Sì. non c'è una divisione di compiti. Ma noi, io credo che no. Noi sin dall'inizio noi siamo trovati come amici, per cui penso sia stato naturale sin da subito non prevaricarsi, no, nelle decisioni. Chiaro che poi quando qualcuno trova la decisione forte, cioè dice ok, in questa situazione adesso questa è la decisione, che l'abbia trovata io o Samuele comunque la si riconosce. Niente. Quando siete stati in studio di registrazione, abbiamo citato di altri musicisti che hanno partecipato, ma qualcuno vi ha dato qualche dritta? Sì, tendenzialmente. Sia il fonico che... Chi è il fonico? Il fonico si chiama Andrea Dainotti e fa il chitarrista per Tonino Carotone attualmente. E lui ha saputo darci molti consigli, insieme anche a Marco Conti, che è il contrabbassista che ha suonato il Ritornerò a Brucerò, che è anche il mio maestro di basso, quindi ti ho dato una mano sicuramente. Sì, anche con gli arrangiamenti, diciamo, qualche quindi consiglio. Gli arrangiamenti sono vostri più di questi altri musicisti? Sì, avete... che comunque sono intervenuti molto poco. Sono intervenuti nel momento giusto. Sì, la responsabilità è vostra al 100%. Sì. Questo è importante. Facciamo così, sono 23:43. Io proporrei, se un piccolo pezzo live ci starebbe bene, e poi limite mettiamo anche una traccia del disco. Che piccolo, per modo di dire, un pezzo live vostro chiaramente. Quale? Crisalide. Bello, Crisalide, molto interessante. La famosa Crisalide di una famosa etichetta discografica, quella dei Jethro Tull. La Crisalide di Jethro Tull. La Crisalis dei Jethro Tull, famosa etichetta. E anche quelli non facevano progressi, però quasi. Facevano anche progressi. Recentemente Ian Anders è venuto qui in Italia. La scorsa settimana ha fatto 3 concerti Christmas. Ah. Sai che lui ha fatto un famoso disco di Christmas Song, rivedute e corrette da loro, dei Jethro Tull, molto famoso, è venuto a Bolzano e altre 2 date, ha fatto 3 date dei Christmas praticamente. E Jethro Tull è un gruppo molto importante, secondo me. Li conosci Jethro Tull? Sì, li conosciamo. Siete pronti o quasi? Sì, suona. Ah, suona loro. Paolo, in edizione ridotta. Ok, sì. Perfetto. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, tutto assolutamente live, in diretta, Young Sense. Sì, è scritto anche il mio nome, ti ringrazio. La webcam curata da Roberto Baldi, ha fatto dei lavori, un lavoro strepitoso stasera Roberto, anche Michele Tosoni in regia. Questo era un pezzo molto delicato. Sì, come Buonanotte. Come Buonanotte, non siamo, abbiamo quasi finito, però non abbiamo finito. È molto delicato, era una traccia regalata a Rock Wave oppure una traccia che è un po' sviluppata poi nel disco? Chiaramente è stata sviluppata in modo diverso. Sì, dimmi. In realtà alcune cose le ho improvvisate. Ah, le hai improvvisate, benissimo. Sì, quando le registravo praticamente. E niente, insomma. Ma era molto bella, molto significativa. Alle 23:48 ci sta benissimo. Sì, una bella buonanotte. Una bella buonanotte. Poi hai usato un suono particolare tu alla batteria. Sì. Come si chiama quello strumento? Sono le campane tibetane. Ah, le campane tibetane, portate a successo da Mike Oldfield molti anni fa. Tubular Bells. Sì, conosco. Ero indeciso su anche quella. Anche volevi citare. Esattamente, le campane tibetane. Bellissimo. Un suono che va benissimo, che ci sta alle 23:49, secondo me. Stupendo. Mm-hmm. Le svilupperete in altre puntate, in altri dischi, in altre occasioni, le campane tibetane oppure no? Sì, probabile. Probabile? Sì, siamo dei cultori delle campane tibetane. Ah, bello. Anche qualche altro cultore delle campane tibetane. ci stanno bene. Sì. Sono ideali per chiudere il cerchio, secondo me. A proposito di chiudere il cerchio, sono 23:49, io proporrei un pezzo dall'album, una traccia che volete voi da far sentire. Mettiamo da Imbrito. E che traccia è? La numero 5. La numero 5. Come mai, tanto mi fai una piccola storia velocemente del pezzo. Dying Breed appunto viene dopo London Track, questa immagine apocalittica, ed è quando lui la suona, vai vi discorrendo, io mi immaginavo come se l'umanità fosse scomparsa, tra virgolette, più o meno, e rimanevano soltanto le macchine che continuavano a funzionare. E da quello anche il nome. Ah, esattamente, ok. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, siamo verso la conclusione, sono le 23.52. Adesso alcune informazioni di servizio. Come si intitola l'album? Ho trovato il pifferaio di Pandora. Perfetto, la distribuzione della Lunatic. Sì, è distribuito online grazie a Pyramus, per cui potete trovarlo nei maggiori negozi online di musica. Quindi possiamo trovarlo in questa maniera, oppure materialmente per comprarlo? Dovete venire a sentire i nostri live. Benissimo, questo è importante. Il prossimo, li ripetiamo, quelli saranno nel 2011 i vostri live. Vai Samuele. Febbraio-marzo, per adesso, poi dopo vediamo. Febbraio-marzo al Varese, al Twiggy. 26 di febbraio e poi marzo, data ancora da definire, a Times Square di Pavia. Perfetto, e poi avevi detto prima di cominciare questa bella diretta che forse qualche idea per l'estero c'era, o no? Sì, assolutamente. Soprattutto in Germania, vero? Sì, Germania, Olanda, quei posti lì. Anche perché poi abbiamo un'amica che è su in Olanda, magari stasera ci potrà ci invita. Sentire. Ci sente sicuramente, se è collegata, ci può sentire via streaming, quindi non ci sono problemi. Esatto. Benissimo. Ok, io vi ringrazio di questa cavalcata fino alla mezzanotte, è stata molto piacevole per me. Grazie. Abbiamo a te. Sviluppato il vostro discorso musicale, questa concept album, questo pifferaio di Pandora, è molto positiva. Con cosa concludiamo? Concludiamo con un altro pezzo inedito che è ancora in lavorazione. Bella. Diciamo un buon pezzo per dare la buonanotte anche a questo. Esattamente, un pezzo per dare la buonanotte. La musica dà sempre bene la buonanotte, secondo me. Sì. Qualunque. Ok, grazie agli Anses che vengono da Pavia, via Lago Maggiore. Quello. Lago Maggiore e soprattutto poi Pavia. E Pavia, soprattutto questo. Grazie, buonanotte a tutti. Ci sentiamo la prossima settimana con 4 live. Sì, adesso suonano. Grazie a tutti e grazie soprattutto a Michele Toson che ha fatto una regia strepitosa. Grazie. E a Roberto Baldi che ha curato le webcam. Adesso ci si preparano e fra qualche secondo partiamo con il live. Faccio un po' di spazio. Momento, adesso arrivano. Come sempre ci bisogna aspettare qualche secondo perché bisogna predisporre il tutto. Che i live si fanno anche così, bisogna predisporre il tutto. Ci sei? Siete pronti? Buonanotte a tutti e grazie. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock.